Il gastronauta di Davide Paolini. Sine qua non, cari gastronauti e cari radioascoltatori. Ebbene, il panettone è noto che è tradizione natalizia. Ebbene, per noi di Radio 24, per noi che scriviamo da anni di questo argomento, la tradizione è diventato il panettone d'agosto. Ormai è un fatto che si ripete da 7 anni, quindi 7 anni che parliamo di questo, che lo abbiamo lanciato, che ogni anno organizziamo eventi un po' in tutta Italia. Quest'anno veramente sarà un agosto pienissimo, non pieno. Nei prossimi giorni infatti ci saranno in giro per l'Italia un calendario di eventi che toccano il panettone d'estate veramente incredibili, ma ve le racconteremo ora durante questo viaggio nel panettone d'estate. Cominciamo dalla Puglia, che tutti pensano che in Puglia non ci siano grandi produttori. Non è assolutamente così. Ormai il panettone è diventato un dolce tradizionale italiano e soprattutto al sud sono emersi in questi anni veramente dei pasticceri che ottengono dei buonissimi panettoni. E allora andiamo a Grottaglie, in provincia da Taranto, da un fedelissimo del panettone d'estate. Andiamo da Emanuele Lenti. Buongiorno Emanuele. Buongiorno Davide e buongiorno a tutti i radioascoltatori. I forni sono già pronti per sfornare? Sì, no, io già siamo partiti, già il 6 e il 7 avevamo già un evento, si chiamava Orecchiette nelle Inchiosce, era una sagra, una manifestazione, già siamo partiti. Però insomma è partito tutto il discorso del panettone d'estate, oramai è già partito, come hai detto tu, sono 7 anni e quindi... Senti Emanuele, in questi anni la domanda del consumatore è cresciuta? Sì, perché già da come inizia l'estate, subito dopo la primavera, già cominciano a chiedere quest'anno ci saranno, a Ferragosto ci saranno, cioè oramai loro stesso ce lo chiedono. Ecco, tu quest'inverno, per Natale, hai così messo sul mercato un panettone che è stato un po' una sorpresa. È stato il panettone con le olive, con delle olive particolari, le olive celline, se non erro, che sono appunto olive tipiche della tua terra. Ecco, d'estate si può fare questo panettone oppure non ci siamo? Diciamo come gusto e come, così, se vogliamo, come appunto poterlo servire anche con altre cose. Come no, si può fare, difatti... Si può fare anche col gelato, si può accompagnare anche col gelato, con le olive celline viene fatto anche il gelato con queste olive qui, quindi si può accompagnare benissimo. E ci sono particolari, delle novità quest'estate? Per panettoni diversi, perché tu ogni anno sforni qualcosa di nuovo, quindi volevo sapere se... Non è andato in porto, però stiamo studiando qualcosa al caffè, ma sicuramente per Natale, non abbiamo fatto in tempo a tirarlo fuori per l'estate, ma sicuramente per l'estate prossimo sì, caffè gelato chissà come sarà. Sì, mi sembra che magari invece del gelato freddo, cioè del caffè freddo, si può fare l'accompagnamento... caffè congelato, sicuramente sarà una squisitezza. Ecco, e cosa consigli tu d'estate appunto il panettone? Con quale abbinamento? Ripeto, qui soprattutto nel Salento molte gelaterie stanno facendo questo gelato con le olive celline e si potrebbe abbinare anche il panettone con questo gelato, il panettone con le olive, oppure, non lo so, il panettone classico con un gelato particolare. Insomma, io devo dire che il gelato allo yogurt lo vedo molto bene con il panettone. Comunque poi bisogna lasciare, ci sono dei gusti particolari, ma poi avremo anche una bravissima gelataia, quindi, che tra l'altro è stata colpita dal terremoto in modo molto ma molto molto serio. Poi ne parleremo, quella che ho conosciuto, se non sbaglio, a San Patrignano. Sì, esattamente, che poi sì. È venuta poi in giro ed è stata anche lei da 7 anni che gira con il panettone d'estate, quindi sì, la faremo parlare, gli faremo raccontare un po' anche i suoi grossi problemi. Comunque Emanuele, il panettone, tu fai panettone di diverse carature, fai anche un panettone di 3 kg se non erro. Ma 3 kg, il 5 e il 10. Ah ecco, tu fai anche il 10 ed è forno a legna se non erro, vero? Sì, cotta nel forno a legna. Noi i nostri panettoni vengono cotti esclusivamente nel forno a legna. Quindi è un qualcosa veramente di molto particolare. Lunghe lievitazioni, lievito madre e forno. Sì, e forno. Assolutamente, lavora solo il nostro lievito madre, nessun altro. Non viene accompagnato e aiutato da nessuno. Bene, grazie. Allora lo ripeto, Emanuele, c'è qualche manifestazione, diciamo, in estate, appunto, che tocca il panettone nella tua terra? Diciamo, come ho detto prima, una già è stata fatta, sì, il 6 e il 7. Certo. Stiamo un po' cercando di diffonderla per soprattutto nelle marine, negli stabilimenti, di fare qualcosa di più importante. Bene, se non lo facciamo quest'anno lo faremo sicuramente il prossimo anno. Bene, perché già quest'anno il calendario è veramente molto ma molto ricco, e ora ne parliamo subito di questo calendario, perché andiamo a Rapallo, andiamo da Guido Porrati di un negozio Parla Come Mangi, che appunto sta organizzando un qualcosa di particolare sul panettone d'estate. Ce lo facciamo raccontare direttamente dalla sua viva voce. Buongiorno Porrati. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide dall'assolatissima Rapallo e dal Golfo del Tiguglio. Bene, allora raccontaci un po' cosa farai. Beh, dunque, facciamo un tour del panettone nelle spiagge. Inizieremo da un gioiello di questo golfo, che è Paraggi, dove saremo ospiti della spiaggia, dello stabilimento che si chiama appunto Bagni Paraggi, dell'Hotel 8, dove incominceremo così a far assaggiare le creazioni straordinarie di questo pasticcere sommo che si chiama Claudio Gatti di Tabiano Terme, con la sua focaccia di Tabiano. Che poi lo sentiremo, ci faremo raccontare da lui. Quale data quindi a Paraggi? Il venerdì 17 agosto, andiamo contro qualsiasi scaramanzia e ci vogliamo divertire in spiaggia, e iniziamo appunto da Paraggi. Poi? Poi da lì, innanzitutto devo dire che avremo una coppia di ferro, perché avremo il buon Claudio Gatti con il suo falso panettone, e poi avremo Paolo Saracco, produttore di un grandissimo moscato. Bene, un abbinamento perfetto sicuramente. Benissimo, bene anche io. E poi la freschezza del moscato in spiaggia è spettacolare. Poi ci spostiamo ai bagni Miramare, dell'albergo Miramare, storico albergo di Santa Margherita, dove la famiglia Fustinoni ci ospita per continuare questo party in spiaggia di abbinamento insolito panettone e moscato, per poi venire qui a Rapallo, dove nella piazza antistante al mio negozio, che si chiama Piazza del Chiosco della Musica o Piazza Martire della Liberazione, finiremo con la gran festa, dove faremo continuamente assaggiare, raccontare, insomma, le novità che il nostro Claudio ha inventato per l'estate, perché c'è una novità che poi vi dirà lui. Senti Guido, ma tutto in un giorno avverrà questo itinerario? Iniziamo alle 3:30 a Paraggi, al 4:45 saremo a Santa Margherita per essere con un aperitivo dolce qui da noi in bottega per le 6:30, 6:45, 7:00. E la festa durerà fino a che ora? Finché la gente non se ne va via. Quindi diciamo che è veramente un itinerario con il panettone d'estate e con il moscato, quindi credo che veramente potrà essere pericolosi per quelli che amano appunto questo, diciamo, questo prodotto, che lo amano tutto l'anno, perché è ovvio che c'è chi lo ama solamente a Natale, e io rispetto la tradizione, per carità. Non metto in dubbio che il panettone sia tradizione natalizia, però diciamo, chi lo ama come il sottoscritto e come tanti altri, non si può vietare di diciamo, produrre questo prodotto tutto l'anno. E devo anche ricordare che anni fa, appunto, durante una trasmissione, diciamo, il presidente dell'associazione dei panettieri pasticceri del Canton Ticino ha ricordato che nel loro cantone, da circa 90 pasticcerie, da sempre producono il panettone d'estate, perché viene molto richiesto soprattutto dagli stranieri di passaggio, quelli che non lo trovano poi in Italia e se ne tornano. Quindi credo che questo sia un fatto molto importante, e devo dire che questo movimento panettone per l'estate veramente sta crescendo di anno in anno. E io ringrazio Guido Porrati, perché questa qui è una bellissima iniziativa, poi specialmente itinerante e anche molto, ma molto divertente. Voglio chiedere a Porrati se magari lui farà con un camioncino, si trasferirà coi panettoni dietro e Gatti magari sul camioncino che è pronto a tagliare i panettoni. Apecar e Vespa saranno i nostri mezzi di trasporto, perché quei giorni lì le cose vanno fatte serie, insomma non possiamo avere la slitta di Babbo Natale, ma l'Apecar rossa sì, eh. Ah beh, quindi ci ho azzeccato, senti, non lo sapevo io questo, e quindi credo l'Apecar si muoverà appunto con questi panettoni. Volevo chiederti questo, ma la tua passione per il panettone è da sempre, è nata da poco? No, la passione è assolutamente da sempre. Sono nato negli anni, alla fine degli anni 60, e quindi mi sono mangiato tanti panettoni industriali, che possono anche andare bene, ma quando poi sono cresciuto e ho avuto modo di conoscere le produzioni artigianali, perché il mio mestiere mi imponeva una ricerca, ragazzi, non si può più tornare indietro. Ecco, quando hai assaggiato un panettone artigianale di pasticceria. Ecco, l'accostamento tuo preferito d'estate, col gelato o senza gelato? No, io mi dispiace, ma io sono talebano in questo caso, e quindi la freschezza di un buon panettone con pasta madre col crescente dà quella freschezza giusta che mi soddisfa e mi dà soddisfazione. Insomma. Bene, io aggiungo che sono talebano anch'io, che lo mangio da 3 kg possibilmente, perché secondo me è la dimensione giusta, con le mani. Lo mangio solo esclusivamente con le mani. Grazie a Guido Poratti, e allora a questo grande itinerario che partirà da Paraggi e si chiuderà a Rapallo il giorno 17 agosto. Scrivetelo, cari ragazzi astronauti, e che in zona vada, perché sicuramente sarà una grande giornata per gli appassionati del panettone. Eccoci di nuovo, cari radioascoltatori, cari gastronauti. E sarà un'estate all'insegna di panettone gelato questa? Oppure non lo sarà? E diciamo, coloro che i talebani della tradizione forse sobbalzeranno dalla sedia quando sentiranno parlare di panettone d'estate, ma è ormai un qualcosa che veramente sta crescendo un po' in giro per l'Italia. Ma ora andiamo diciamo a Forte dei Marmi, in maniera metaforica, anche se il nostro Gianni Mercatali è a Firenze, però andiamo a Forte dei Marmi perché ci proiettiamo appunto nelle prossime giornate d'agosto, perché questo diciamo vivace esperto di comunicazione da sempre sulla breccia si è inventato 20 anni fa un'iniziativa che era il piatto in spiaggia. E devo dire che ha avuto sempre grande successo e continua ad avere grande successo. Ma prima ci facciamo raccontare cos'è e poi parleremo del panettone. Buongiorno Gianni. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori della tua trasmissione. Ci racconti questa tua iniziativa ormai ventennale? Sì, dunque l'iniziativa nasce prima di tutto da un'esperienza che avevo fatto con Ugo Tognazzi circa per 10 anni, quando lui inventò insieme a sua moglie Franca Bettoia, Babette Caldarà e Carla Leone una manifestazione che si chiamava L'Uomo in Cucina, dove 10 attori cucinavano e 10 donne del cinema, attrici e registe, le giudicavano. Fu negli anni 70, inizio anni 80, un'esperienza bellissima, e quindi il ricordo di questa esperienza, passando le mie estati, stessa spiaggia, stesso mare, a Forte dei Marmi, lì era solito nella zona, durante le vacanze, fra tenda e tenda, fare così delle piccole gare spontaneamente fra la signora di Milano che cuoceva la sua cotoletta naturalmente col burro, mentre la signora toscana la cuoceva con l'olio extravergine d'oliva, e il dibattito si apriva sempre molto vivace. Da qui nascevano queste gare in modo spontaneo, ma non solo. In Versilia, in particolare a Forte dei Marmi, era consuetudine preparare a casa un piatto. Chi aveva la domestica o la cuoca lo preparava la domestica, chi aveva la nonna o la zia, la nonna, la zia o la mamma, che poi veniva portato sulla spiaggia e dopo il bagno, rigorosamente dopo il bagno, si mangiava in spiaggia o dentro i capanni o le cabine. Poi sono venuti ai bagni i bar, i ristoranti, eccetera. Questa usanza è un po' sparita, di portare il cibo da casa, un picnic sulla spiaggia. Ma quindi torneremo a questo, perché stiamo tornando ad essere poveri. È vero, ma infatti ti dirò una cosa, che tutti gli anni c'è un tema. Ora il tema di quest'anno saranno dei piatti con il riciclo degli ingredienti. Bello, bellissima iniziativa. Quindi non buttiamo via niente, questo momento è un momento particolare, è inutile adesso approfondire, viviamolo, vediamo il bicchiere mezzo pieno e quindi viviamolo in senso positivo e con gli ingredienti del riciclo facciamo dei buoni piatti. Laddove non ci siano ingredienti di riciclo, prodotti a chilometri zero, comprati dal contadino o comunque dall'ortolano di Viale Versilia magari. Ma tornando alla manifestazione 20 anni fa, così spontaneamente, con delle signore si fece questa gara, questa tavola sulla spiaggia, che doveva essere così un po' un saluto all'estate verso fine agosto. Tra l'altro in quell'anno vinse Tiziana Zanella con Caspacio straordinario, e a fare una premiazione così ci fu un giovanissimo Carlo Conti, il quale carinamente e simpaticamente, come è il suo costume, il suo stile, mi disse: tanti auguri Gianni, che continui questa bellissima manifestazione, che per me invece sarebbe finita quell'anno. Sta di fatto che quest'anno si contano 20 anni di successi e quindi anche di grande divertimento. Gianni, quest'anno c'è un posticino piccolino anche per il panettone, ecco arriviamo al dunque, vero? Ma io direi che non sarà un posticino tanto piccolino, perché secondo me da questo palcoscenico, no, sulle sabbie nobili del Forte, il panettone d'estate può veramente essere non solo un argomento, ma un'occasione di vero interesse. Facciamo lavorare questi straordinari pasticceri che per tutto l'anno. Ma la cosa forse, se vuoi, più curiosa, e questo ti dimostra che non sarà un posticino, è il fatto che il venerdì 24 agosto, quindi l'indomani della gara, quando ci sarà la premiazione nella storica e mitica capannina di Franceschi, oggi della famiglia di Carla e Gerardo Guidi, ci sarà, dicevo, la premiazione. Dopo la premiazione noi faremo il panettone in capannina, cioè la capannina è celeberrima perché ha sempre aperto i suoi panettoni per Capodanno e per la vigilia di Natale nei suoi grandi galà. Quest'anno per la prima volta, per colpa del Gastronauta, si aprirà il panettone alla fine d'agosto a conclusione di A Tavola sulla Spiaggia. Bene, bene, grazie Gianni. Ripeto, A Tavola sulla Spiaggia è il 23 agosto. Giovedì 23. Dove? Quale bagno? Allora, siamo come di consueto al Bagno Roma di Levante dalle 18 in poi il 23, giovedì 23 agosto, premiazione in capannina. Venerdì 24 agosto e panettone a gogo. Grazie. Grazie Gianni, e ora andiamo in un posto purtroppo che in questo periodo sta vivendo veramente dei momenti terribili. Andiamo a Moglia, in provincia di Mantova, e andiamo da Greta Belladelli, che è proprietaria della gelateria Chantilly, e di cui ho accennato prima. Greta è con noi sul discorso del panettone gelato dall'inizio, e lei è stata durissimamente colpita dal terremoto, al punto che, diciamo, il suo laboratorio è stato completamente distrutto. Ma Greta non si è arresa e ha già ripreso la sua attività, anche con l'aiuto di molti suoi colleghi sparsi per l'Italia. Greta, è così, vero? Buongiorno, sì, è così. È così, non abbiamo mollato l'osso, insomma, dopo 10 giorni circa in cui siamo rimasti fermi, ci siamo poi riattivati con una casetta di legno antistante, in pratica al negozio. E infatti oggi e domani noi festeggiamo appunto il panettone d'estate, perché è la quarta edizione. Esatto. E ci teniamo a portare avanti la tradizione in pratica. E poi, insomma, siamo stati invitati anche a fare alcuni eventi in giro per l'Italia, appunto per essere sostenuti. Il primo appunto che ci ha sostenuto è stato Danilo Peraccini, che sentiremo poi, dal quale saremo, esatto, fra qualche giorno. Infatti, ecco, perché è una tradizione, appunto, che poi lo diremo, a Milano Marittima. Quindi abbiamo sentito Forte dei Marmi, abbiamo sentito Paraggi, abbiamo sentito Rapallo, abbiamo sentito Santa Margherita. Anche Milano Marittima avrà il suo panettone d'estate, ed è stato l'antesignano, appunto, con la gelateria Chantilly. Quindi Greta, io volevo così, volevo ringraziarti perché tu da anni stai seguendo diciamo il panettone d'estate e in questo anno così particolarmente duro per te, che tu sia presente è un fatto molto ma molto positivo. Volevo solo chiederti se tu ancora vuoi fare qualche appello, cioè hai bisogno di qualcosa e quindi ti serve qualcosa, o vuoi invitare diciamo nella tua gelateria che si starà spostando, tu hai detto quest'estate, in qualche altro posto, fallo tranquillamente. Beh, allora noi vi invitiamo tutti oggi e domani al Panettone Party, dove appunto degustiamo il panettone da colazione fino al dopo cena, tutto nell'arco della giornata, un panettone tradizionale con lievito madre naturale abbinato ai nostri gelati e alle granite. E poi ci vediamo sicuramente per Ferragosto al Bagno Milano. Bene, bene, grazie, grazie Greta. Grazie. Sempre in gamba, tieni duro, mi raccomando, ti siamo vicini comunque. Bene, continuiamo questo viaggio e ora andiamo a Sarmeola di Rubano, in un posto molto importante, perché andiamo nella pasticceria delle Calandre. Le Calandre è notissimo, notissimo come ristorante, ma soprattutto anche come pasticceria, perché la famiglia Alaimo è partita anche come pasticceria e qui si fanno veramente dei prodotti notevoli. Appunto, c'è stata anche un'evoluzione nel panettone da parte di questa pasticceria, e ne parliamo con Ascanio Brozzetti, che è responsabile appunto del laboratorio. Buongiorno Brozzetti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, voi siete andati in una direzione che è molto particolare sull'olio. Esatto, noi abbiamo deciso che già da un paio d'anni che abbiamo cambiato il tipo di grasso e l'abbiamo sostituito con dell'olio extravergine di oliva per mantenere una pulizia di gusto, diciamo, e anche per dare un po' di italianità. Quindi sicuramente è una via molto diversa, e a lei chiedo, ma l'olio che sostituisce il burro durante l'estate è più adatto appunto al caldo? Beh, sicuramente è meno grasso e è un impatto in bocca, diciamo, che sicuramente stanca meno e soprattutto riesce a veicolare meglio i profumi o la frutta candita che andiamo a mettere nel nostro impasto. Ecco, volevo chiedere anche questo, siccome Massimiliano Alaimo è veramente un vulcano sugli accostamenti, sulle invenzioni, ha inventato qualcosa per l'estate in particolare da accostare o all'interno di, diciamo, del panettone o della focaccia, come chiamate voi? Beh, diciamo che appunto noi la focaccia è il nostro modo di servire il panettone tutto l'anno, perché crediamo comunque che si tratta di stagionalizzare il lievito e non di destagionalizzare il panettone, che magari è legato anche a un ricordo, a un momento di condivisione. E comunque, per quanto riguarda gli accostamenti, possiamo fare qualcosa di molto tradizionale come un sorbetto, un gelato, oppure sicuramente potrebbe stare bene con alcuni formaggi. Ah, addirittura, questo è interessante. Sì, sì, sì, sì. E quali formaggi, Brozzetti? Allora, diciamo che ci stiamo lavorando, comunque dipende dal tipo di impasto, però magari con qualche parmigiano, con qualcosa di stagionato, non starebbe male. Senta, un'altra cosa volevo chiederle, ha parlato di sorbetti, anche qui c'è qualche particolare sorbetto che va meglio di altri secondo lei? Diciamo che dipende sempre dal tipo di focaccia che andiamo a fare, se magari usiamo il cioccolato sicuramente qualcosa alla marasca starebbe molto bene. Ecco, invece se forse voi lo fate anche al caffè, mi sembra, la vostra focaccia. Sì, sì, facciamo la focaccia al caffè, dove magari una granita di albicocca ci potrebbe stare molto bene. Bene, queste sono novità che arrivano appunto dalle Calandre, in quel di Sarmeola di Rubano, dalla famiglia Alarmi. Alaimo, grazie a Ascanio Brozzetti, a presto e buon lavoro, inventate qualcosa di nuovo, poi magari fatecelo sapere. Bene, continueremo questo viaggio ora appunto in giro per l'Italia, raccontandovi altre iniziative ed altre manifestazioni celebrazioni che avverranno appunto durante l'estate, diciamo dal Ferragosto in poi. Eccoci di nuovo a panettone tutto l'anno, in particolare panettone d'estate. Ho detto prima ai tradizionalisti: non vi scandalizzate, perché il panettone a Natale ci sarà sempre, avrà delle confezioni particolari, sarà presentato in maniera particolare, però non impedite chi ama il panettone continuamente, come il sottoscritto o tantissimi altri, perché continuamente durante l'anno riceviamo email, riceviamo sms, segnalazioni appunto di gente che mangia il panettone tutto l'anno. Volevo ricordare anche che in provincia di Rieti esiste una sagra del panettone da circa 20 anni, quindi credo che sicuramente questa tradizione sia ben lontana del panettone, il panettone d'estate, così come in provincia di Mantova e a Mantova c'è questa tradizione ferragostiana di mangiare il cotechino. Io ho raccontato questa storia divertente di essermi incrociato con dei mantovani in Sardegna anni fa, e io avevo portato il panettone, loro avevano portato il cotechino, e c'era qualche signore attorno che era scandalizzato, diceva: questi hanno scambiato il Ferragosto con l'ultimo dell'anno. Ebbene, può anche succedere. Bene, continuiamo questo viaggio e ora andiamo a Tabiano Terme, in provincia di Parma. Andiamo alla pasticceria Tabiano da Claudio Gatti. Volevo sottolineare che appunto la geografia dei produttori del panettone è un po' cambiata in questo paese. Cioè, c'era una grandissima concentrazione, e c'è ancora ovviamente Milano, Lombardia, dove nasce la tradizione del panettone. Però ormai diciamo che la pasticceria, coloro che in pasticceria fanno panettone artigianale, veramente sono tanti in tutta Italia. In provincia di Salerno ad esempio c'è la pasticceria Pepe, ma però potrei continuare, anche in Puglia ce ne sono altri, oltre a Grottaglie Lenti, ma c'è anche Caputo ad Altamura. Bene, quindi dicevo, tantissimi in giro. Ma ora torniamo al nostro Claudio Gatti. Buongiorno Gatti. Buongiorno, sono Davide Paolini. Beh, Gatti ormai è un aficionados anche lui del panettone d'estate, e come avete sentito già e anticipato, Porrati appunto sarà il protagonista di questo itinerario. È un fatto inedito, abbiamo detto che partirà da Paraggi, farà poi Santa Margherita e si concluderà a Rapallo. Appunto il protagonista sarà appunto il panettone di Claudio Gatti, ma Porrati ci ha detto, sarà una grande sorpresa quella che presenterà Claudio Gatti, che viaggerà a bordo di un'ape. Gatti, allora qual è questa grande novità? Cosa ha preparato per questo tour, un vero e proprio tour del panettone? Sì, abbiamo preparato un tour insieme a Guido. Praticamente ogni tappa che faremo assaggiare una focaccia di fatti in modo diverso, praticamente a seconda dell'orario. Quindi presenteremo una focaccia alla birra, una focaccia con ananas, pesca, albicocche, e in più la novità sarebbe una focaccia al tè verde con dei frutti esotici, praticamente ananas, mango e papaya, che penso che sia un prodotto adatto anche per l'estate. Quindi è molto, come posso dire, molto esotico come prodotto. Sì, molto esotico, molto fresco. Con questo tè verde che dà un aroma molto molto particolare. Penso che sia un prodotto che l'ho tenuto proprio, ci sto lavorando da parecchi mesi, ma l'ho tenuto proprio per questa grande occasione d'estate, per farlo assaggiare a tutte le persone che verranno. Senta Claudio, ma ha pensato di abbinarla con un gelato al tè verde? Sì. Io ho anche gelateria, perché sono pasticceria ma anche sono gelateria, quindi io sto già facendo la focaccia, a parte che la produco tutto l'anno, però non è la prima volta che noi tagliamo la focaccia qui nella mia gelateria e lo abbiniamo anche a tanti tipi di gelato. Il tè verde è un buonissimo abbinamento, che da poco tempo ho cominciato a farlo, però vedo che è un buonissimo abbinamento. Da lì ho preso anche spunto proprio per fare anche il mio panettone, la mia focaccia al tè verde. Ecco Gatti, qual è il gelato diciamo più richiesto dai suoi clienti per abbinarlo al panettone? Ma penso o la vaniglia o il fior di latte, però. Quindi sono questi quelli che vengono più gettonati. Beh, quello al tè verde mi sembra un'ottima idea. Senta, e quindi durante questo tour, diciamo, il panettone verrà abbinato a qualcosa, oppure lei ha già detto che è un panettone ricco di frutta, quindi sarebbe già sufficiente così? No, Guido si sta lavorando con un grande impegno per fare dei grossi abbinamenti, però ogni fascia oraria della giornata pensiamo di presentare un prodotto diverso, per dare il giusto abbinamento, faccio per dire il panettone alla birra, penso che potremmo di abbinarlo al verso sera, un panettone al tè verde lo abbiniamo al mezzo pomeriggio, cioè cerchiamo di fare un qualche cosa di, per stuzzicare la gente, anche per dare qualcosa di nuovo. Bene. Stiamo lavorando insieme per fare una bella riuscita di questa grande manifestazione. Bene, bene, grazie Claudio Gatti, bene, buona fortuna con questo tour e buon divertimento, anche perché credo che saranno anche posti molto piacevoli in questo periodo estivo. Bene, andiamo a Borghi di Forlì Cesena da Massimo Vitale, anche lui è un, diciamo, come posso dire, è un aficionado anche lui del panettone d'estate, e non so quest'anno quali iniziative così si inventato il nostro Massimo Vitali. Buongiorno Vitali. Buongiorno Paolini, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sì, anche quest'anno siamo un pochino sulla cresta dell'onda, ci siamo spostati, abbiamo spostato un po' il baricentro verso Rimini, visto che pullula di eventi, ragion per cui in collaborazione col Risto Bar Dall'Aiole del Molo, già da luglio che stiamo seguendoli, soprattutto in un'importante manifestazione che si è tenuta alla fine di luglio e si terrà anche verso la fine d'agosto, ancora le date sono in divenire, che si chiama Molo Street Parade, dove ci sono dei disc jockey che animano le serate a bordo dei pescherecci, e appunto nel peschereccio Stefania del Bar Dall'Aiole si serviranno, oltre a piatti di mare e quant'altro, come dolce il mio panettone albicocche e pinoli. Ecco, si è inventato qualche nuova novità per questo agosto? Sto proponendo ai miei clienti, sia agli affezionati che a quelli nuovi, sia il panfrutto Vesuvio che è con canditi di limone da abbinare eventualmente anche a, che ne so, gelato alla fragola o fragoline insomma proprio frutta in vera e propria, e il torbello, che è quello che ho presentato anche a Fuori di Testa, con pasta di mandorle, cioccolato affumicato, un po' dal profumo insomma affumicato. Senta, glielo chiedono i suoi clienti in questo periodo, ma lo fa il panettone quest'anno durante l'estate, glielo chiedono oppure no? Sì, assolutamente, ho degli affezionati che non vedono l'ora che arrivi la fine di luglio e agosto, appunto, aggiunge Borghi anche da Rimini, sono privati che oramai hanno consigliato, insomma. Bene, grazie a Massimo Vitali, appunto, forno di Massimo Vitali a Borghi. Bene, continuiamo questo viaggio. Ora arriviamo da un personaggio che è stato un po' il pilastro di questi anni, perché devo dire che senza Danilo Piraccini dello stabilimento balneare Club Milano di Milano Marittima, insomma, che ha preso il via un po' questo tour del panettone d'estate, se non ci fosse stato lui a crederci, beh, insomma, non avremmo avuto qualche problema in più. Che quest'anno, come ha detto prima Greta Bellaldelli, c'è la gelateria, appunto, della pasticceria Chantilly, ma c'è sempre stata, quindi quest'anno, come dicevo prima, sempre di più gradita questa presenza per, appunto, i problemi che Greta ha avuto con la sua gelateria a Moglia in provincia di Mantova. Buongiorno Danilo. Buongiorno a voi, buongiorno Danilo. Allora, anche quest'anno partiamo il 15 di Ferragosto? Anche quest'anno partiamo, la provocazione continua, ma direi ormai l'idea è consolidata. Mi sembra che in campo ci siano innovazioni all'insegna della qualità e della buona gastronomia, per cui noi ci siamo. Ecco, devo dire che quest'anno il cartellone è ricco, perché Forte dei Marmi, Milano Marittima, Rapallo, insomma, il Salento, beh, siamo molto forti. Danilo, quest'anno prevedi che ci sarà qualcosa di particolare o sempre sarà panettone gelato? Allora, quest'anno abbiamo questa iniziativa, come accennavo prima, dove oltre al panettone estivo e gelato verrà avviato un panettone salato ideale per aperitivi, per cui andiamo avanti su questa strada. Avremo ospiti, fra l'altro, la gentilissima Greta, che è di Moglia, per cui è nato questo gemellaggio, quindi noi ospiteremo la sua splendida gelateria al Club Milano, proprio per dare anche una mano dal punto di vista morale ed economico. Morale esatto, ed economico. Sì, a questa splendida attività artigianale di Moglia. Per cui naturalmente noi abbiamo colto questa sfida già da tempo, ma direi a questo punto qui non è più una sfida, è più ormai sono i clienti che ci chiedono quando è che fate il panettone gelato, quando è che lo servite, quindi noi a questo punto abbiamo una difficoltà diversa, insomma. Senti, l'arrivo dei turisti si prevede ottimo dall'estero, così conosceranno questo splendido dolce italiano, oppure c'è un po' di fiacca in giro? Allora, adesso il livello turistico quest'anno risente un po' delle difficoltà in generale, per cui insomma c'è qualche difficoltà, cioè, però noi anche qui siamo imprenditori, amiamo le sfide, le competizioni, per cui ci impegniamo. L'approccio al turista straniero, in particolare tedesco, a questo panettone, l'approccio di tutti, ma direi forse meno sorpreso di altre figure straniere, per cui un po' il fatto di essere da noi in terra di Romagna, quindi devo dire riconosciuta come una gastronomia interessante ed europea, direi mangia questo panettone congelato con un chalance, quindi l'apprezzo, la qualità, che questo è importante. Bene, mi sembra una bella novità quella del panettone salato come aperitivo. Allora lo ripeto, il giorno di Ferragosto, stabilimento balneare Club Milano a Milano Marittima. E un grazie a Danilo Piracini per averci creduto già dall'inizio. Grazie Danilo, e a presto. Ciao Davide, saluto a tutti, arrivederci. Ciao. Bene, ora passiamo la linea alla regia, torneremo fra poco e volevo solo sottolineare quello che ha detto Piracini, ha detto appunto che i tedeschi non sono sorpresi. Certo che se passano dal Canton Ticino non sono assolutamente sorpresi, perché tutto agosto è ricco di panettoni. Eccoci di nuovo a parlare di panettone in versione estiva. Abbiamo sentito tanti accostamenti proposti e abbiamo sentito anche che questo tour che avverrà in Liguria, l'accostamento è con il Moscato d'Asti. E proprio per questo noi abbiamo in linea Giorgio Bosticco, direttore del consorzio Asti di OCG, per chiedere a Bosticco se, come produttore, lui rappresentante dei produttori del Moscato appunto d'Asti, ritiene così l'abbinamento ideale del panettone d'estate. Buongiorno a tutti, buongiorno Paolini. Io mi rifaccio ad una campagna pubblicitaria di diversi anni fa con Pozzetto come protagonista per una marca leader di panettoni, che diceva: Natale quando arriva arriva, e quindi può arrivare benissimo anche a Ferragosto. Benissimo, mi sembra giusto, potrebbe essere il nostro emblema questo. E a maggior ragione la nostra denominazione, che è sia Moscato d'Asti nella versione Tapporaso, ma soprattutto l'Asti con le bollicine in versione spumante, è l'abbinamento ideale con il dessert e con il dolce, quindi con il panettone, e a maggior ragione da destagionalizzare fuori dal periodo solo tradizionale dei consumi a Natale. Senta Bosticco, che temperatura secondo lei è ideale di poterlo servire? Allora, bisogna tenere presente che l'Asti si caratterizza soprattutto per il quadro aromatico, cioè per l'intensità dei profumi floreali che riesce ad esprimere, quindi non deve essere eccessivamente freddo, perché il freddo inibisce lo sviluppo dei profumi. La temperatura ideale è tra gli 8 e i 10 gradi. Ecco, c'è anche un modo di servirlo particolare, perché appunto le differenze tra questi due prodotti sono anche nel bicchiere, nel calice. Assolutamente sì, non è indicato il classico flute perché ha una superficie a contatto con l'aria limitata, invece se si prende una coppa o un bicchiere con un'apertura più ampia, lo sviluppo del profumo è decisamente superiore. Ecco, stavo pensando che anche abbinandolo al gelato, diciamo che sono prodotti che si abbinano anche bene al gelato, sia l'Asti che il Moscato. Non so lei cosa ne pensa. Non solo si abbinano, ma si fanno in molte gelaterie anche gelati a base Asti e a base Moscato. Ecco, io direi che il panettone, appunto, prima abbiamo parlato di abbinamenti di gelato, e credo che l'abbinamento con un gelato al Moscato sia veramente molto ma molto interessante, perché appunto abbina questi sapori, questi profumi, e come poi, non dico di bere un bicchiere di Moscato, per carità, se no lei magari si arrabbia su questo, sicuramente, però diciamo che è un abbinamento sicuramente da scegliere tra le varie tipologie di gelato. Mi permetta di aggiungere, l'Asti e il Moscato provengono totalmente dall'uva. Quindi se si fa il gelato alla pesca, il gelato alla fragola, si può benissimo fare anche il gelato all'uva di Moscato, partendo già dal mosto o dal vino. E sia il Moscato che l'Asti sono i due prodotti che in bottiglia subiscono meno lavorazione in cantina, meno invecchiamento, e riescono a garantire, ad assicurare la sensazione di di bere una coppa come di mangiare un grappolo d'uva. Ecco, volevo chiederle, cioè la produzione dell'Asti è molto importante, credo, anche dal punto di vista economico e per l'export. Allora, l'Asti spumante e il Moscato d'Asti rappresentano, per dare un'indicazione, il 20% dei produttori e della superficie viticola del Piemonte e il 40% del giro d'affari. Quindi è un'entità significativa per il Piemonte e ha un peso decisamente sui mercati mondiali, in quanto esportiamo oltre l'80, siamo vicino all'85% di esportazione in quasi tutti i paesi del mondo. Soffriamo un po' in Italia per non solo una questione di congiuntura e di crisi economica, ma perché l'Asti soffre di una posizione adeguata alla qualità del prodotto in termini di immagine, in quanto è posizionato principalmente nella distribuzione moderna, nei supermercati, ed è soggetto, come anche il panettone o il pandoro, a operazioni chiamate civetta, certo, di promozione sotto costo. Ecco, non giova l'immagine alla valorizzazione del prodotto. Le voglio fare un'ultima domanda birichina. Lei cosa ne pensa di questa parola, di questo termine bellissimo, bollicine, che qualcuno vorrebbe abolire? Qualcuno in Lombardia vicino a noi porta avanti strategie di marketing, di comunicazione, condivisibile o meno. Noi manteniamo invece fermo il concetto di bollicine. Abbiamo addirittura inaugurato con l'inizio dell'anno una comunicazione e un inserto che esce sulle pagine dei quotidiani e dei settimanali piemontesi, che abbiamo chiamato proprio Bollicine New. Quindi non ci distacchiamo assolutamente dal concetto di bollicine. Quindi sicuramente se chiamiamo il vostro prodotto bollicine voi non vi offendete, anzi siamo contenti. Sì, sicuramente. Perché la bollicina, a differenza della bollicina dell'acqua minerale grossolana, è data dall'aggiunta di anidride carbonica, nel caso dei nostri spumanti, metodo Charmat, quindi a fermentazione in grandi recipienti, avviene con attenzione, con una lenta rifermentazione che origina quel finissimo perlage al momento dello stappo della bottiglia, e che con il termine bollicina cade a fagiolo, come si dice. Cade a fagiolo. Bene, a fagiolo. Io ringrazio Giorgio Bosticco, direttore del consorzio Asti di OCG, e ora andiamo a Padova, andiamo da una produzione molto particolare che, diciamo, fa parte del panettone d'estate dall'inizio ed è molto conosciuta, che è quella del panettone dei carcerati di Padova, della pasticceria I Dolci di Giotto, appunto. Andiamo dal presidente della cooperativa, da Nicola Boscoletto, che ci parlerà di quali sono le iniziative, perché sono tante, del panettone d'estate da parte della cooperativa Giotto, vero? Sì, certo. Caro Davide, intanto ciao, grazie come sempre e un saluto a tutti. Le nostre iniziative continuano, non ti abbandonano, non abbandonano questa grande idea di valorizzare questo grandissimo prodotto, per cui dal 2008, con questa grande exploit che abbiamo avuto ad agosto al Miti di Rimini, promuovendo, vendendo e facendo assaggiare circa 5.000 panettoni, abbiamo continuato, e sono tanti i luoghi e le strutture che quest'anno a Ferragosto avranno il nostro panettone. Parlo da strutture turistiche che vanno da Bolzano a Cosenza, a Livorno, a Trento, in Val d'Aosta. Io personalmente fra qualche giorno sarò in vacanza in Val d'Aosta alla Tuil, all'Hotel Planibel, e lì a Ferragosto, come l'anno scorso, quindi mangeremo insieme un migliaio di amici il panettone del carcere dei dolci di Giotto, ma anche in Svizzera, perché alcune strutture turistiche anche della Svizzera, da Pontresina a St. Moritz, mangeranno fra alcuni giorni il nostro panettone. Quindi siamo contentissimi proprio di essere dentro questa squadra, sia quelli di operatori che potranno assaggiarlo e gustarlo dal di fuori del carcere, ma mi sento di dire che anche tutti i ragazzi, pasticceri, aiutanti, che durante tutto l'anno, che anche nel periodo di agosto, quindi sfornano questa delizia, saranno felici che qualcun altro mangerà, festeggerà con il frutto e il lavoro delle loro mani, insomma. Senti Nicola, volevo chiederti qual è la data di che voi sarete a Rimini al meeting dell'amicizia, appunto col panettone d'estate? Ah sì, sarà dal 19 al 26 di agosto. Anche a di agosto, quindi anche qui siamo prossimi ormai. E i grandi del mondo, di ogni ordine e grado, del mondo culturale, politico, accademico, scientifico, dello spettacolo, religioso, eccetera, di ogni parte del mondo, nel reparto dell'hospitality, saranno tutti quanti deliziati da un assaggio di panettone, e che poi, come sempre, come anche gli anni scorsi, qualcuno chiaramente se ne porterà una copia nel suo paese di origine. E quindi una circuitazione che, diciamo, con quest'anno in maniera direi proprio consolidata varca tutti i confini nazionali e quindi diventa una possibilità internazionale. Volevo chiederti questo, ma appunto voi avete anche un panettone novità, avete lanciato, che non è solamente il panettone tradizionale, ma c'è anche, così come posso dire, una deviazione, mi sembra, col vino, se non erro. Ah certo, lo abbiamo presentato e sarà la novità Natale 2012, sarà il panettone buono al cubo. Finora era buono al quadrato, questo è diventato buono al cubo perché vede insieme questa realtà nostra sociale del pasticcerie dolci di Giotto del carcere di Padova con le cantine di Donna Fugata di Oserallo, che insieme a questo passito di Pantelleria abbiamo fatto il panettone al capire. Quindi quest'anno a Natale per la prima volta lanciamo questa confezione bellissima in cartotecnica con dentro il panettone al capire e una bottiglia di capire. Quindi mangiando il panettone al capire si potrà poi sorseggiare anche il passito, il capire di Pantelleria. Grazie, grazie Nicola Boscoletto, grazie e a presto a te e a tutti quelli che abbiamo sentito. Quindi riepiloghiamo un po' questo viaggio. Il giorno 15 agosto Club Milano a Milano Marittima, il giorno 17 Tappa Paraggi, Santa Margherita Rapallo, 23 a Forte dei Marmi al Bagno Roma Levante, e poi ancora appunto dal 19 al 26 meeting dell'amicizia a Rimini, e poi tanti altri, diciamo, festeggiamenti che ci saranno poi comunicati di volta in volta e noi cercheremo magari di comunicarvi. Bene, allora devo dire che al finale di questa trasmissione vorrei fare una battuta. Quando si dice sempre all'inizio dell'estate di un allenatore che non mangerà il panettone, per dire appunto non arriverà a Natale. Ora col panettone d'estate anche questa battuta probabilmente non è più valida. Bene, vi auguro un buon weekend a tutti e buon panettone d'estate, ovviamente con gelato, con moscato, con vini di tutti i generi e con accostamenti magari i più variabili possibili, perché così si incrementerà appunto questa idea del panettone d'estate. Buon weekend di nuovo da Davide Paolini.